ecco fa di brava. Ma su tu mia che so? Ma su tu mia che so? Eia. So. Sì. Tu me lo devi dire. Alza la voce però. Ma lo devi dire tu che so, magari. Ah, chi sei? Boh. Ibu. Come ti chiami? Luciano Pavarotti. Cazzo, è molto. Proprio per quello. Ti sei scintato? Allora. Ah, ho capito. Buonasera, è straniera questa comunque, buonasera. Ti capisce un tubo di quello che dici? Luciano, lo straniero, buonasera. Era. Buonasera, va. Ancora. Dove siete? Via Italia. E avete fatto che c'è? Cos'è? Cosa va a vedere da Reggio? Un fuoco. Voi dove siete? Noi, a Pratamona. È vero. E via. Trappiato tutto il collo, adesso cosa gli fa quella? Dio, io non ho fatto nulla a me. No, non so io. Ah, che non ho fatto niente io. Perché ti era graffiato, ma sei dicendo a me. Ma dove siete in via l'Italia? Non ci fate in via l'Italia? Noi siamo arrivati, con perizoma in pigiama. Sei perizoma in pigiama? Eh già, siamo già arrivati, ciao. Che te cosa va a vedere, un tubo voi? Allora, il tubo ce l'abbiamo, il tubo. Ma dove il tubo? Ah, se parli bene ti capisco, se no non ti capisco. Sto chiudendo, ne sono arrivato. E ciao, ciao, noi ancora non siamo arrivati. Ciao amore, ciao, ciao. E stiamo andando a Pratamona, abbiamo cambiato strada, ah ah ah. Ah, vero? Eia. Noto che se. Non tocco niente io, no. No, ludo che se. Io faccio toccare, ma non tocco io. Va bene, stiamo scendendo. Ma da bene, stiamo arrivando.